21.08, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Secondo appuntamento per quanto riguarda questa stagione 2017-2018, riguardante per l'appunto prove tecniche di trasmissione. Appuntamento esistente ormai dal lontano 1992 e che tratta di industrial, situazioni sperimentali, noise, dark ambient. Un programma che andrà avanti sino a circa le 22.30. Presumo che 25 o'clock questa sera non andrà in onda, ma comunque sarò ben lieto poi di essere smentito, ovviamente. Cominciamo con i saluti, che ci sta ascoltando Alessandra qui da Roma, Antonio da Firenze, Raffaele Pezzella da Napoli, Giovanni Lisi da Bari. Thank you, thank you, thank you. Dunque, prove tecniche di trasmissione. Il telefono lo sapete ormai, per i più affezionati lo sanno ormai a memoria, uno storico numero esistente dal 77 proprio, 0649 1750, sito internet www.ondarossa.info per seguire lo streaming, già frequentato peraltro, e ringrazio chi lo sta facendo in questo momento. L'indirizzo di posta elettronica ondorossa@ondorossa.info e questo spazio ha una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder. Domani ci sarà come al solito la playlist e il podcast, rintracciabile anche sul sito della radio testé enunciato. Raffaele Pezzella lo salutiamo e quindi lo menzioniamo di nuovo per andarci ad ascoltare due passaggi da questa Visions of Darkness of Iranian Contemporary Music, che come si può intuire dal titolo va un po' a studiare una scena iraniana sconosciutissima ma molto molto interessante. Salutiamo nel frattempo anche i grandi Wurnus Island, dei quali avremo anche presto il loro nuovo lavoro, e Anna Maria Di Stefano, ottima voce dei Style Syndrome di Roma, e qui ci inoltriamo nel gothic, li salutiamo. Tornando a questa compilation riguardante l'Iran, cominciamo con l'ascoltarci uno dei tanti personaggi misteriosi, in questo senso risponde, in questo caso risponde al nome di SSMP con The Blue Chasm, e poi Alifi con Condition Number Third. Slavash Sujudi Music Project, un acronimo, o meglio si traduce nell'acronimo SSMP, proveniente da Teheran, formato nel 2011. Effettivamente le influenze partono anche dall'ambient, concepite per esempio dai Boards of Canada e gli scricchioli classici di un Matmos, di un Murkoff, eccetera eccetera, tanto per citare tre artisti menzionati con intelligenza da Antonio Cristofaro. Un grosso ciao anche a Fulvio Biondo di Sorallogge, di nuovo Like e Wake qui da Roma. Qua Ali Fe con questa Condition Number 3, un'altra traccia da questa compilation Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music. Era Ali Fi, Ali Panani, nato nel 1986, anche lui di Teheran, e anche lui fa parte di questo compendio molto interessante, ideato, costruito dal nostro Raffaele Pezzella, che salutiamo e ringraziamo di nuovo, e anche lo ringraziamo delle precisissime note che pone sulla mia bacheca in questo momento mentre io parlo e mando questa musica. Si arricchisce la platea con Enrico Carrino da Battipaglia. A Nesplay Sounds, l'etichetta che cura il tutto ed è un gruppo anche di appassionati, un gruppo che consiglio sempre di andare a trovare e di iscriversi, perché si mastica, si parla e si ascolta buona musica. E questa è una compilation che ascolteremo a lungo, già che ho selezionato parecchi brani. Abbastanza dunque sostanziosa sarà la materia che andremo ad ascoltare. Dall'Iran andiamo in Polonia. Abbiamo scoperto così nel sterminato archivio personale questi Crepulez, l'ho ritirati fuori così per sbaglio, beccando per sbaglio un video su YouTube. Loro erano perché sono ormai 10 anni che sono pressoché scomparsi dalla scena musicale. Hanno fatto 3 lavori e questo è New Radical, l'ultimo lavoro per la Beast of Prey, etichetta proprio dello stesso Crepulez. Ci ascoltiamo Poznan e poi Misi o Prislozzi, chiaramente in polacco, chiaramente pronunciato malissimo, ma tant'è. Qui ci muoviamo in territori più martial industrial con qualche capolino in aria neofolk. Thank you. contatto. Il talento pure a farsi un po' di rente che si guarda da me. Mi attende per me. Je me tiens rente un guarda a drambia. Będzie nasza miłość do wielkiego przyjaciela narodu polskiego. Ritirati fuori questi Crepulets con questo lavoro, il terzo lavoro New Radical del 2007. In alternanza atmosfere Martial e altre più folk, più neofolk come questa che sta andando sotto la mia voce. Wojciech Zeba, la One Man Band, il detentore di questa One Man Band, Crepulets. E secondo me in Crepulets ci sono anche ascolti assai nobili, per esempio i Laibach che quest'anno si sono caratterizzati nel fare uscire un ottimo lavoro che porta il nome Also Sprach Zarathustra, ovviamente ispirato alla omonima opera di Richard Strauss, e questo disco è una colonna sonora anche di un'installazione teatrale slovena. Questo ennesimo passaggio prevede per questa sera Das Glück e Das Nachtlied nella sua prima e seconda parte. profund. Sagen Sie, wir haben das Glück erfunden. Thank you. Ancora l'Aibach da questo Also Sprach Zarathustra, 21:40 Radio Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione. Un saluto a Enrico Cerrato, alias Petrolio. Anche lui fa parte della grande famiglia ormai, un saluto a lui da Asti, al pari di Wurnus Island, stessa città, stesso valore. Ritorno intensissimo dunque per gli sloveni Laibach, ricordo provenienti da Ljubljana, la capitale proprio della Slovenia. Laibach, come molti sapranno, è il vecchio nome tedesco della capitale slovena. Laibach ha una carriera molto lunga con poche cadute di stile, devo dire. E questo ultimo lavoro, Also Sprach Zarathustra, riprende certe atmosfere vecchie, così neosinfoniche, con questa industrial così monumentale, spiazzando un po' tutti noi in senso positivo, dopo una virata leggermente più commerciale ed elettronica degli ultimi lavori, pur sempre dignitosi. Milan Frassa la voce, e sembra che ultimamente, almeno in questo disco, ci sia anche una vera e propria orchestra che accompagna il gruppo, cosa che dovrebbe accadere anche dal vivo, e si vocifera anche un tour in Italia assolutamente da seguire. Intanto Rodrigo Passannanti da Londra, alias Hypercube, lo salutiamo. Mit einem altro grosso calibro. E sto parlando degli Einsturzende Neubauten, visti dal vivo qui a Roma un paio di mesi fa. E qui abbiamo un'altra testimonianza live in quel di Bruxelles il 15 settembre del 2000, quindi esattamente proprio 17 anni fa. Era un doppio lavoro, un doppio CD, e questa sera ci ascoltiamo Alles e End Noi. Was war, war als erklärt. anderen Stein, denn sie wird gebrannt, auch als Carpe Diem, den Weltbrand von uns gierig konsumiert. Auf dem Busus folgt der Vater, das ist Busus, aber als Erklärung für die Katz. Für mich und die Bekannten bleibt der Rausch ein Muss. Schön an die Haltungssatz, zum Kuss in Schäferstunden. Alles, alles, alles, was irgendwie ist. Wohnt Yuki. E dopo alles sta per partire And Noi. Professor Goethe aus der Universität Hamburg und Professor Alexander Fabian von der Universität Vilnius in Litauen, Lithuania. Thank you. una testimonianza live di Bruxelles del 15 settembre 2000, quando loro, gli Einsturzende Neubauten, conservavano ancora un po' il lato, diciamo, più sperimentale. Dal vivo si avvalgono di una moltitudine di percussioni, ma come stavo dicendo qui sulla mia bacheca, sulla pagina Facebook con Antonio, percussioni ingiustamente trascurate, tenendo conto la mole di materiale che si portano sul palco, in realtà potrebbero fare un qualcosa di ancora deviante volendo. Ma vuoi magari le frequentazioni di Blixabarger con Teo Teardo, peraltro buone e interessanti, vuoi altri fattori, fatto sta che spesso provare il lato più intimista di questo gruppo che ha fatto la storia della scena industrial a partire dagli anni 80. Lament, comunque, il loro ultimo lavoro di qualche tempo fa è un buon lavoro, ma appunto ricalca queste cose e questa tendenza che ho detto adesso. Adesso andiamo.